Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Come sapete, venerdì scorso, 30 marzo, ci è arrivato un bel pesce d'aprile con due giorni di anticipo, però abbiamo scoperto subito che non si trattava di uno scherzo ma di una circostanza reale. Cosa è successo? Che l'autorità del gas e dell'energia ha comunicato la consueta revisione trimestrale delle tariffe di luce e gas, informando le famiglie e le imprese italiane che sono in arrivo degli aumenti piuttosto sostanziosi. Dal 1 aprile la luce, cioè l'energia, rincarerà del 5,8%, il gas dell'1,8%. Nel rendere noto questo aumento, l'autorità ha fatto anche sapere di avere congelato e rinviato a maggio un altro incremento del 4% per l'elettricità dovuto agli incentivi per le rinnovabili. Ciò per dare, ha detto appunto l'autority, un segnale chiaro alla politica affinché intervenga su un sistema di incentivazione che è chiaramente non più sopportabile né per le famiglie né per le imprese. Una situazione della quale, a parte l'effetto sicuro che vedremo in bolletta, vogliamo sapere qualcosa in più. È una situazione inevitabile? Esiste ancora un ammortizzatore che ci possa proteggere da questi aumenti, che alleggerisca la bolletta? Una spesa fissa per le famiglie italiane, incomprimibile. Allora, cosa possiamo fare? Cosa potrà ragionevolmente succedere nei prossimi mesi? Ne parleremo questa mattina raccogliendo, come sempre, anche le vostre sollecitazioni all'800240024, oppure potete scriverci al 349-238-6666. I nostri interlocutori di questa mattina, il dottor Alberto Biancardi, componente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Buongiorno. Buongiorno. Ci sente, buongiorno. Buongiorno e benvenuto naturalmente. Poi ridiamo il benvenuto anche a Maurizio Melis, conduttore di Smart City, ogni giorno alle 21 su Radio 24, ormai gettonatissimo in tutte le trasmissioni. So che ieri sei stato anche a Focus Economia. Beh, ci hanno dovuto alzare le bollette però perché mi invitassero. Ah, beh, quindi sei anche un po' piccato per la circostanza. Qualche chiameremo anche per qualcosa di più. No, nel senso che non è là per una buona notizia, purtroppo. Infatti ormai non è colpa tua, che ti disegnano così, un po' sì, come avrebbe detto Jessica Rabbit. Maurizio, grazie comunque. Allora, vi ho già ricordato ai nostri ascoltatori in che modo possono interagire con noi. Ci sono anche altri due canali, potete scriverci a salvadanaio@radio24.it oppure andare ad animare le vostre, chiaramente su questo argomento, polemiche su Facebook all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24. Prima della bolletta, dell'elettricità, della bolletta del gas, vediamo un po' stamattina la bolletta della borsa cosa racconta. Racconta di una nuova brutta giornata per i mercati finanziari. Abbiamo un calo particolarmente pronunciato a Francoforte, che perde l'1,84%, Parigi meno 1,27%, Londra meno 1,19%. Oggi curiosamente Milano fa meglio delle altre piazze, perde appena mezzo punto percentuale, ma diciamo che ha recuperato il negativo nei giorni passati ed è stata per diversi giorni la peggior piazza d'Europa. Oggi torna a farci agitare lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi è risalito fino a 345 punti base, con il rendimento del titolo decennale al 5,27% sul mercato secondario. Una tensione che è ricominciata da qualche giorno e che oggi è stata alimentata anche dall'esito di un'asta spagnola, anzi di tre aste, perché sono stati collocati bond a scadenza triennale e quadriennale a 8 anni, 2,5 miliardi di euro di titoli piazzati. L'asta però avrebbe voluto incassare qualcosa di più, 3,5 miliardi. Non è andata particolarmente bene, soprattutto perché i rendimenti sono ritornati a salire sui titoli spagnoli. Per esempio, per il titolo a 3 anni il rendimento è passato dal 2,44% di metà marzo al 2,89%. Siamo ritornati sopra il 4% per i titoli a 4 anni. Per il bonus con scadenza 2020 siamo al 5,33%. E quindi, insomma, ritorniamo un po' a preoccuparci per il mercato obbligazionario. A Piazza Affari, migliori titoli: Campari più 1,85, Telecom più 1,72, Generali più 1,34, Diasorin più 0,95%, mentre abbiamo in discesa di 4,5 punti Mediolanum, meno 4,5 punti per Finmeccanica, meno 3,73% per Fiat Industrial, Mediaset meno 3 ai suoi minimi storici sotto i 2 euro, Banco Popolare meno 2,74, meno 2,73 per Pirelli, meno 2,5 punti per Buzzi Unicem, per Prismian e per STM. Sono negative anche le banche, ma per una volta tanto non sono i peggiori titoli della giornata. Euro su dollaro a 1,3162. La borsa lasciamo da parte, andiamo invece adesso a parlare di un'altra nota dolente per le famiglie, e cioè degli aumenti in arrivo per le bollette di luce e gas. Non saranno certo contente le famiglie italiane che negli ultimi anni si sono messe d'impegno per cambiare le proprie abitudini e hanno ridotto al minimo i consumi nella speranza di alleggerire le bollette di luce e gas. C'è chi si è dedicato a lavastoviglie e lavatrici serali per approfittare dei vantaggi della tariffa bioraria, chi ha verificato con cura le sue spese, confrontando scrupolosamente le singole voci di ogni bolletta. Chi ha valutato con attenzione le offerte di ciascun gestore del libero mercato per poi continuare ad affidarsi al servizio di maggior tutela. Come previsto, infatti, le bollette aumentano. A comunicarlo l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che venerdì scorso ha reso pubblici gli aggiornamenti trimestrali. Per il periodo aprile-giugno la bolletta della corrente elettrica aumenterà del 5,8% e quella del gas dell'1,8%. Un rincaro che, se considerato nell'arco di 12 mesi, comporterà per una famiglia tipo una crescita della spesa annua di circa 50 euro, arrivando ad una spesa media annua complessiva per l'elettricità di poco inferiore ai 500 euro. Più contenuto l'aumento del gas, che si è potuto tenere sotto controllo anche grazie al nuovo metodo di aggiornamento previsto dal decreto Cresci Italia e che si traduce in una spesa annua totale di 1.231 euro per una famiglia media. Tante le motivazioni alla base dei rincari: gli incrementi del petrolio, gli oneri di distribuzione e i costi indiretti per la messa in sicurezza dei sistemi elettrici. Vanno poi calcolati, per la bolletta della luce, i costi degli incentivi previsti per le energie rinnovabili, che soprattutto per via di quello che si può definire un vero e proprio boom del fotovoltaico nel nostro paese, potrebbero portare, il prossimo mese, ad un ulteriore aumento del 4% che andrà a sommarsi al 5,8% attualmente conteggiato. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Vedo già che vi siete prenotati in moltissimi. Posso già dire che ci sono alcuni ascoltatori anziani che ci stanno chiamando e che chiaramente guardano con un po' di preoccupazione a quello che sta accadendo per chi prende chiaramente una pensione minima. Anche un rincaro che possa essere poca cosa nella bolletta e molta cosa invece nel questo magro bilancio. Magari coglieremo l'occasione per ricordarvi come funzionano i bonus per l'energia e l'elettricità che l'autorità del gas appunto riconosce da qualche tempo. Prima però andiamo al tema che abbiamo annunciato, appunto gli aumenti che arriveranno a partire dai prossimi mesi. Dottor Biancardi, tocca a lei spiegare un po' più nel dettaglio quello che succederà nel bilancio delle famiglie italiane nei prossimi mesi. Avete già calcolato che per esempio questo più 5,8% vale almeno 50 euro di maggiore spesa in più all'anno per quello che riguarda appunto una famiglia che fa un consumo medio di elettricità. Tra l'altro ci spiega un po' anche come quantificate questi rincari, qual è la famiglia tipo che monitorate? La famiglia tipo che monitoriamo è la famiglia quella che noi riteniamo più significativa dei consumi, ma è appunto una diciamo una tipologia in qualche modo media. Stiamo parlando di 2700 kilowattora di consumi annui e con il contratto di potenza su 3 kilowatt. Evidentemente sono conteggi medi e come tutti questi casi le medie, no, hanno un valore importante ma non possono rispecchiare il contratto e la situazione di tutte le singole famiglie. Ecco, dottor Biancardi, quando venerdì pomeriggio avete comunicato questa revisione tarifaria, che è trimestrale, quindi è periodica ed è un appuntamento fisso che l'autorità e che conosciamo molto bene, si era scatenata un po' così di tensione, perché in concomitanza con la comunicazione c'era la contestuale organizzazione di una conferenza stampa del presidente dell'Authority Bortoni. Appunto un po' tutti ci siamo chiesti cosa mai si sarebbe dovuta annunciare, poi lo abbiamo appreso appunto che la notizia importante era che se non aveste deciso di spezzettare in due l'aumento appunto previsto per l'energia, in realtà il rincaro da comunicare sarebbe stato ben più alto. Ci racconta un po' le motivazioni che vi hanno indotto a fare questa scelta, perché la decisione di dividere in due più 5,8% da subito e più 4% da maggio per l'aumento appunto dell'energia, così almeno lo facciamo capire anche agli ascoltatori che avessero perso gli articoli di giornale degli ultimi giorni? Sì, certamente. Allora, abbiamo deciso di rinviare di un mese tutta la parte della tariffa riguardante l'incentivazione alle nuove tecnologie, in particolare al fotovoltaico, proprio per sottolineare a tutti, a politici, a istituzioni e a cittadini, che questo importo è assolutamente, insomma, rilevante, tenuto conto anche che si va comunque a sommare a un incremento già, insomma, consistente, perché 5-8% è comunque importante. Questo perché evidentemente la scelta di incentivare, quanto incentivare, chi incentivare come tecnologia, in parte minore è nostra, ma è anche derivante da scelte fatte da Parlamento, dai ministeri, e quindi ci è sembrato opportuno sospendere per un mese, per far sì che venga fatta rapidamente, come ci era già stato chiesto tra l'altro, una riflessione su cosa si può fare, ecco, per rendere tutti ancora più coscienti della fase che stiamo vivendo. E posso chiedere un giudizio così a sensazione? Secondo lei ci sono i presupposti affinché questo rinvio possa essere definitivo, nel senso che questo 4% possa essere cancellato e non possa essere caricato sulle famiglie? Dunque, diciamo che dobbiamo stare molto attenti, perché per controbilanciare le giuste esigenze di cittadini, di imprese viste come consumatrici di energia elettrica, ogni rinvio, non so che cos'altro, ogni misura su cui noi ci stiamo assolutamente concentrando, è un bene. Però il settore dell'energia è anche un settore in cui molte imprese italiane e estere investono, sono settori molto importanti per l'economia, perché danno occupazione, quindi non dobbiamo neanche far passare il messaggio che l'Italia è un paese dove le regole non valgono. Si tratta di ragionare in modo sereno per capire se ci sono degli spazi per mettere mano in qualche modo al sistema di incentivazione, ma senza, direi, purtroppo, pensando che sul fronte dei consumi gli incrementi, in particolare questo 4%, possa essere nella sostanza diverso. Quindi il messaggio è che probabilmente il 4% lo troveremo tutti in bolletta fra un mese, però si tratta di capire se si può fare qualcosa per rendere meno imponente, no, la crescita di questi incentivi. Certamente. Allora, io tra un minuto devo già fare la prima pausa, però un minuto di microfono a Maurizio Melis lo concedo. Allora, quali considerazioni? Ma io vorrei fare aggiungere ad Alberto Biancardi, che tra l'altro è ospite questa sera anche Smart City, anche esatto. Smart City, un altro dato più che altro. Biancardi, sbaglio o questo 4% poi non sarà realisticamente l'ultimo aumento a quale assisteremo, perché sappiamo già che, come dire, questo 4% fotografa una certa situazione a un certo punto, ma ci sono altri incentivi di cui tenere conto, il quarto conto energia che arriverà fra pochi mesi, quindi c'è un trend che va anche oltre questo 4%, se guardiamo più avanti. È vero, perché il 4% corrisponde a una corresponsione di incentivi per 6 miliardi di euro su base annua per l'energia fotovoltaica, ma noi sappiamo già che un altro paio di miliardi dovranno essere caricati in bolletta nel corso, diciamo, di qualche mese. E anche per questo che abbiamo appunto sollevato l'attenzione di tutti, perché non è l'ultimo aumento degli incentivi, e quindi a maggior ragione dobbiamo capire che fare. Bene, come poter ammortizzare tutto questo. Allora, mi faccio intanto, adesso cedo la linea alla regia, la domanda dell'uomo della strada, che per quanti sforzi faccia l'autorità dell'energia a diffondere bollette trasparenti, è chiaro che non tutti poi conoscono le dinamiche, no? Io stessa ci capisco ben poco. Perché io devo pagare il fotovoltaico se per esempio non ho allestito una strumentazione di questo tipo a casa mia? Quindi mi faccio banalmente la domanda che possono fare tutti: se aumenta il petrolio posso anche capire che ho questi ricarichi sulla bolletta, ma per quale motivo tutta la collettività deve incaricarsi anche di questi aumenti che arrivano appunto anche da tutto questo fenomeno? E allora, il tema di questa mattina vedo che già stimola molti ascoltatori ad intervenire, e stiamo parlando appunto dell'aumento di gas ed elettricità che partirà da questo mese. più 1,8% per quello che riguarda il gas, più 5,8% per quello che riguarda l'elettricità, e da maggio arriverà un più 4% ulteriore proprio per l'elettricità ancora, anche se questo rincaro è stato fermato per il momento, appunto congelato, anzi prima mi diceva Maurizio Meli, si è splittato in due, perché appunto è determinato dagli incentivi alle rinnovabili, quindi l'autorità, per sollevare di nuovo anche, cosa che peraltro ha fatto da diversi mesi, sta facendo da diversi mesi, il dibattito politico su questo, sulla riorganizzazione degli incentivi alle rinnovabili, appunto ha ritenuto di sollevare di nuovo in maniera anche abbastanza rumorosa l'attenzione su questo tema facendo questo rinvio. E però insomma le bollette saranno più care per tutte le famiglie e per tutte le imprese nei prossimi mesi. Come possiamo proteggerci da tutto questo? Tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto, poi ritorno con Maurizio Melis, dottor Biancardi dell'autorità del gas e del energia, appunto torno a lei per un attimo. Questo aumento e questo aggiornamento dei prezzi che l'autorità fa periodicamente riguarda il servizio di tutela nel quale le famiglie e le imprese si trovano, quelle che non hanno deciso di passare al mercato libero. Per chi è passato al mercato libero, quindi ha goduto dei benefici e delle opportunità della liberalizzazione, gli aumenti arriveranno lo stesso in misura diversa o dipenderà dal tipo di rapporto commerciale che hanno instaurato con l'operatore prescelto? Allora, dipende chiaramente dalla seconda possibilità che lei ha prospettato, e quindi dal tipo di contratto che hanno fatto con il loro fornitore. Ci sono contratti di tutti i tipi, se sono agganciati questi contratti all'andamento del prezzo nella maggior tutela e o al prezzo, diciamo, agli incentivi, quindi al fotovoltaico, avranno un incremento, altrimenti non lo avranno. Questa è una decisione che spetta al singolo consumatore e al fornitore. Perché ci sono stati, per esempio, in passato, Maurizio, tu te lo ricorderai senz'altro, molti operatori commerciali che hanno proposto il blocco della componente energia, no? Qualora questa appunto avesse subito degli aumenti, ma prima o poi dovrà essere caricata sui consumatori. Non se la può assorbire completamente il gestore, il distributore. No, certo. Ma qui abbiamo ormai un, diciamo, se proviamo a fotografare questa bolletta della famiglia italiana, tipo di cui si parlava prima, che attualmente con questi nuovi rincari si prevede sarà di circa 500 euro all'anno. Se andiamo a vedere qual è l'impatto complessivo delle rinnovabili elettriche, stiamo attenti. Spiegaci prima cosa: rinnovabili elettriche. Le rinnovabili elettriche sono un pezzo della sfida, poi ci sono le rinnovabili termiche che contano di più anche in termini di obiettivi europei, e poi c'è l'efficienza energetica che è un mare di energia a disposizione sulla quale stiamo investendo pochissimo. Delle rinnovabili elettriche poi a loro volta sono divise in tante tecnologie. Il fotovoltaico è quella che di gran lunga ha fatto un po' da assopigliatutto e si è preso, allo stato attuale siamo circa al 60% delle risorse che gli italiani stanno mettendo in bolletta per tutto il comparto rinnovabile, efficienza, eccetera, eccetera. Il 60% circa sta andando al fotovoltaico. Qui è il problema, anche perché senza questa quota così esorbitante di fotovoltaico, dovuta a incentivi troppo generosi, non sarebbero esplosi fino a questo punto i conti. Oggi, di fatto, circa il 20%, e non il 13% che viene assegnato agli oneri, circa il 20% più o meno della bolletta dipende dalle rinnovabili, diciamo dell'incentivazione delle rinnovabili, perché noi non solo paghiamo gli incentivi che vengono caricati sulle bollette a chi installa un impianto rinnovabile e produce energia rinnovabile. Quindi se l'hai installato tu, in parte lo pago anche io. Assolutamente sì. Non solo c'è questo aspetto, ma ce n'è un altro. Siccome queste fonti come il sole e il vento vanno e vengono, allora è necessario tenere attive, come dire, delle centrali tradizionali in funzione, tenerle in funzione in modo che possano intervenire quando arriva la nuvoletta sull'impianto. Certo. Bisogna fare delle opere di rete più complicate. Quindi questo incide e finisce non nella famosa quota 3 dell'energia, insomma, queste che vengono continuamente criticate, ma finisce proprio dentro il mare magnum del costo di produzione e di spacciamento dell'energia. Gli oneri di sistema sono questi. Esatto, i primi sono gli oneri di sistema, in cui finiscono gli incentivi, cioè si stabilisce che si dà un certo incentivo che è legato direttamente proporzionale all'energia che tu produci. Se la produci in modo rinnovabile ti danno un tot per ogni kilowattora di energia che hai prodotto, questo tot viene prelevato dalle bollette di tutti gli altri italiani. Per cui se io mi metto un impianto fotovoltaico sul tetto, cosa di per sé non solo legittima ma anche bella e positiva, diciamo, certo. Bella e positiva, però scarico sugli altri, come dire, il costo di questa operazione. Per di più, questo costo è molto elevato perché gli incentivi che abbiamo adottato in Italia sono stati molto molto generosi, il triplo di quelli tedeschi, un paese con una forte industria fotovoltaica che quindi non doveva importare gran parte, come noi, invece del fotovoltaico dall'estero. Quindi è stata nel suo complesso, io credo, un'operazione un po' sballata. Quindi paradossalmente questo più 4% che dovrebbe arrivare a partire dal prossimo mese è frutto anche di un successo in Italia? Se vogliamo dirla così, ma è un successo, beh, è un successo dovuto al fatto che il mercato è stato drogato, cioè la bolla. Noi l'anno scorso siamo stati il primo paese al mondo per fotovoltaico installato, ma abbiamo pochissima industria fotovoltaica. L'anno prima eravamo i secondi. C'è stata un'esplosione del fotovoltaico perché gli incentivi erano così alti che tutti i fondi di investimento si sono comprati impianti fotovoltaici e noi abbiamo avuto questa bolla. Quindi definirla positiva io non me la sento di farlo, perché quegli stessi soldi, se li avessimo spesi sempre a favore delle rinnovabili e magari dell'efficienza energetica, io credo che noi avremmo cambiato faccia al paese con 7 miliardi all'anno per 20 anni. Mentre così arriveremo a produrre il 3-4% dell'energia elettrica. Detto questo, che sono discorsi di scenario anche piuttosto anche complessi, ampi, io sì, sai, certo, che mi inchino davanti alla tua competenza. Sempre adesso noi dobbiamo in soldoni affrontare invece i prossimi mesi, in cui i rincari arriveranno, siccome non saranno gli unici, perché ne arriveranno di tante tipologie, dovremo cercare di capire come arginare almeno questa, oltre al cambiamento delle abitudini sulle quali appunto solleviamo l'attenzione degli ascoltatori da molto tempo. Tra l'altro, in passato l'abbiamo fatto anche raccontando in lungo e in largo quali sarebbero stati i benefici derivanti dal cambiamento delle abitudini per approfittare della tariffa bioraria. Adesso invece abbiamo capito che anche quella non ha più grandi benefici in bolletta. Vediamo che cosa possiamo fare. Dottor Biancardi, è un tema del quale parlate all'interno dell'Autorità del Gas e dell'Energia. Quali campagne si possono fare tra i consumatori per poter invitarli alla riflessione su questo argomento? Ma secondo lei, oggi, anche da padre di famiglia, se lo è, perché io personalmente non la conosco, come cambieranno le abitudini a casa sua? Dunque, io sono intanto un padre di famiglia e quindi sono anche un consumatore. Dunque, innanzitutto io vorrei dire sottolineare un aspetto: l'autorità non è nemica delle rinnovabili, anzi noi pensiamo, come pensino tutte le persone di buon senso, che le rinnovabili e le nuove tecnologie sono il futuro, quindi comunque dovunque si vada dobbiamo aver ben chiaro l'idea che adesso stiamo spendendo incentivi, anche tanti, per avere un futuro migliore. Questo è un messaggio che è importante far passare a tutti gli ascoltatori, a tutti i cittadini. Che fare? Allora, un sistema come il nostro direi che ha luci e ombre. Un aspetto che abbiamo esplicitato riguardo per esempio il mercato del gas, e l'ha detto anche lei in avvio di trasmissione, che grazie per esempio al Cresci Italia il prezzo del gas è aumentato dell'1,8, ma senza queste misure recenti sarebbe aumentato del 2,2, quindi una prima misura su cui dobbiamo continuare a lavorare è rendere più competitivo e concorrenziale il mercato, perché facendo così si abbassa il prezzo, diciamo, della parte convenzionale dell'energia e gli oneri, gli incentivi sono più facilmente sopportabili. E ci sono anche altri aspetti, per esempio investire in infrastrutture. Dobbiamo continuare a investire in infrastrutture, perché più si fanno infrastrutture, più si rende il mercato omogeneo e più si hanno benefici in termini di prezzo. Infatti il problema è che il consumatore, che sicuramente è sensibile a tutto questo, non capisce come mai fino a questo momento ha solamente pagato per tutti questi investimenti ma ancora non ne ha visti i benefici. Dottor Biancardi, non trova? Non si può fare infrastrutture da solo, ecco, il povero consumatore. Ecco. Che dice? Allora, diciamo che intanto il prezzo dell'energia elettrica, rispetto a quello che è stato l'incremento elevatissimo dei prezzi del gas e dei prodotti petroliferi, ha reagito relativamente bene. Noi stiamo parlando di aumenti, ma dobbiamo pensare che il prezzo del gas e del petrolio sul mercato internazionale è comunque, siamo in una fase di persistente prezzo molto elevato, quindi è chiaro che dobbiamo tener conto anche di questo, che più abbiamo un mercato che funziona, più sono, diciamo, i produttori che devono farsi carico di mantenere un prezzo basso nonostante gli incrementi sul mercato internazionale del materie prime. E quindi quando si parla di prezzi si tende giustamente a parlare di prezzi nominali, ma uno dovrebbe pensare al fatto che il prezzo è un prezzo reale, un prezzo relativo ad altri beni. Quindi le nostre liberalizzazioni stanno funzionando abbastanza bene. Se uno fa un paragone dei nostri prezzi attuali rispetto ai prezzi di qualche anno fa, di tutta la parte, anche la parte di rete, direi che il sistema sta reggendo bene. E il fatto che adesso siamo in una fase intermedia in cui abbiamo l'economia, cioè l'energia prodotta da gas e gli impianti realizzati, gli sbottigliamenti in via di realizzazione che paghiamo, e abbiamo anche le nuove tecnologie. Quindi è un momento di transizione e dobbiamo anche sperare di far arrivare il prima possibile la fase di miglioramento. Esatto, perché questo momento di transizione ci arriva in un momento storicamente infelice. Parliamo così. Sentiamo un po' gli ascoltatori. Maurizio, poi ti faccio intervenire a lungo. C'è un altro Maurizio che è da Firenze, che da un po' che attende. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Mi riallaccio a quanto detto poco fa. Nessuno penso debba mettere in dubbio la necessità di investire in fonti rinnovabili, ma per capire se effettivamente si parla di incentivi agli investimenti o di mercato drogato, sappiamo qual è il beneficio derivante dall'energia prodotta dal fotovoltaico, in particolare è quello che incide, da quello che ho capito, maggiormente nei costi diretti e indiretti che il sistema a questo punto deve sostenere per gli incentivi alle fonti rinnovabili. Cioè, faccio per capire, per spiegarmi meglio, se io a questo punto con la manovra, con le decisioni dell'autorità, prendo atto dei costi che appunto il sistema deve sostenere per garantire gli incentivi. Ma quanti benefici ho avuto io? Insomma, si sono compensati almeno? Soprattutto sul prezzo d'acquisto dell'energia, perché mi immagino che se mai avrò un beneficio l'avrò su quella parte. Grazie Maurizio. Tantissime le telefonate che ci stanno arrivando, non riusciremo ad accontentare tutti naturalmente. Sapete che cosa faccio? Poi le vostre mail, se volete i vostri messaggi, giro tutti a Maurizio Melz che si divertirà a rispondervi. Tra l'altro, apprendo adesso dai telegiornali che sto guardando dai monitor che avremo una Pasqua fredda e sotto la pioggia, per cui ritorniamo ad accendere anche i riscaldamenti, così tanto per aggravare la situazione. Maurizio, vuoi rispondere tu al tuo omonimo di Firenze che ci chiedeva se, a fronte del fatto che dovremmo pagare il 4% in più da maggio per affrontare la questione appunto delle rinnovabili e del fotovoltaico, per il meccanismo appunto degli incentivi che spiegavamo prima, che tipo di benefici in cambio abbiamo avuto però rispetto a questo investimento individuale che ogni famiglia fa? Allora, diciamo che intanto dire complessivamente davvero qual è l'insieme di benefici è molto difficile, perché comprende effetti diretti, indiretti, eccetera, eccetera. Per esempio, se ragioniamo sul costo dell'energia, che era, mi pare, l'aspetto centrale poi della domanda, purtroppo i costi superano allo stato attuale ampiamente i benefici. E di ieri, se non sbaglio, la pubblicazione di uno studio dell'Istituto Altesis è venuto fuori, che tra l'altro conferma uno studio precedente molto contestato di qualche mese fa, invece ci avevano azzeccato, è venuto fuori che il fotovoltaico, poiché produce energia durante la parte centrale della giornata, quindi quando c'è il picco di domanda, ha limato il costo dell'energia nel picco, cioè nelle ore in cui se ne chiede di più, perché in quelle ore entrano in funzione impianti poco efficienti per appunto buttare insomma in rete l'energia che serve per soddisfare questo picco. Sembra che così sia stato risparmiato circa 500 milioni di euro. Noi però oggi paghiamo circa 6 miliardi all'anno di incentivi al fotovoltaico, quindi un effetto da questo punto di vista decisamente limitato. Poi ci sono altri benefici di carattere intanto ci sono si paga per la CO2 che si produce, si pagherà sempre di più in futuro. Se si conta anche questo, qui parliamo di qualche decina di miliardi probabilmente. E poi ci sono i posti di lavoro, l'indotto, eccetera, eccetera, e anche qui. Il problema, secondo me, però, è, non va guardato in questi termini. È chiaro che ci sono dei benefici. È chiaro che se uno produce più energia, aumenta la domanda, aumenta l'offerta, rimane uguale la domanda, è chiaro che il costo dell'energia scende un pochettino. La domanda che dobbiamo farci è se questo era il modo migliore per farlo o se non c'erano altre alternative. Io ho chiesto ieri in telefonata proprio al nostro Biancardi dell'autorità, ma secondo lei, se avessimo impegnato 7 miliardi all'anno non sul fotovoltaico, perché arriveremo a quella cifra, ma sull'efficienza energetica, che cosa sarebbe successo? Biancari si è fatto una risata, nel senso, avremmo cambiato faccia al paese. Non credo che cambieremo faccia al paese con quello che abbiamo speso per il fotovoltaico. Va bene, adesso magari se vuole, dottor Biancardi, gli faccio rimarcare anche questi concetti. Ci metto dentro la domanda di Nicoletta da Roma, poi Biancardi, non mi sono dimenticata che le ho fatto anche la richiesta da papà di famiglia, insomma, come farà nei prossimi mesi, cioè adesso è chiaramente una domanda di buon senso, quali suggerimenti possiamo dare ai nostri consumatori per cercare di fare in modo che davvero la bolletta non esploda in mano non appena si apre la busta quando arriverà nella posta delle prossime settimane. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo fare una domanda molto terra terra, però forse... Guardi, siamo tutti nelle sue stesse condizioni, poi tra l'altro un tema talmente complicato che è bene invece renderlo di nuovo più semplice per i nostri ascoltatori. Nicoletta, ci aiuti lei, anzi grazie. La mia domanda è questa, sulla bolletta mi è arrivato Eni S.p.A. divisione Gas e Power, mi è arrivata la comunicazione che da circa un anno loro non provvedono alla lettura, né io devo dire ho provveduto all'autolettura del consumo, quindi ci sarà sicuramente un conguaglio. Vabbè, quantomeno gliel'hanno comunicato, perché qualche volta arriva così, va bene. Sì, sì, però cioè, questo conguaglio, sì. Non volevo dire. Che tariffa si applica? Nel 2011, dovrò pagarlo con l'aumento dell'1,80 se comunicato oggi successivamente al 2 aprile? Oppure al costo di quando ho consumato il gas? Nicoletta, che bella domanda, tra l'altro vedo che stuzzica anche Maurizio Melis. Dottor Biancardi, secondo lei che succederà? Dunque, io penso che lo debba pagare al prezzo quello vecchio, però... Non ci metterebbe la mano sul fuoco? Lo pensa nel senso che è una sua auspicio, una sua opinione? No, non è un auspicio, allora, diciamo che tendenzialmente il suggerimento che diamo sempre noi è quello di comunicarlo, perché è più sicuro, e tra l'altro questo espone anche invece... Sì, ma comunque il consumo fatto nei mesi passati, con qua per quale motivazione si deve vedere applicata una tariffazione diversa? Allora, questa è una situazione speculare a quella che avviene ed è quella più pericolosa, solitamente che il consumo presunto può essere molto più alto di quello reale, allora uno si trova esattamente nella situazione opposta, che paga molto nel primo periodo e poi nel secondo periodo viene fatto un conguaglio positivo. E quindi è chiaro che il suggerimento, perché è sempre meglio tenere sotto controllo la spesa diciamo bimestre per bimestre e comunicarlo telefonicamente, perché tanto è una cosa noiosa, ma comunque un atto rapido. Ma sì, infatti quantomeno veramente si tiene sotto controllo un po' il bilancio. E quindi insomma, dottor Biancardi, forse vale la pena monitorare un po' quello che accadrà da questo punto di vista, perché non credo che nella condizione di Nicoletta si trovi solo lei, forse potrà essere capitata una situazione del genere. Tra l'altro, se non ho capito male, è passata anche al mercato libero Nicoletta, con la società che ha scelto, così Maurizio. Così. Allora, volevo sentire, ci manca pochissimo, Dion dalla provincia di Piacenza, poi andiamo a due suggerimenti finali. Dion, buongiorno, ci tenevo molto a sentire la sua telefonata, lo sa? Ascolti, io sono, lo parlo per un gruppo di mie amiche che sono proprio con la minima e volevano sapere se non c'è niente sconto per chi vive solo e con la minima. Allora Dion, sconti non ce ne sono, gli sconti ci sono, dei bonus per le famiglie che sono in una condizione di disagio economico particolarmente forte, per quelle famiglie che magari gestiscono e si prendono cura di malati gravi che necessitano di apparecchiature elettriche salvavita, che quindi sono delle apparecchiature che consumano molto. C'è stato un aumento di questi bonus per queste famiglie, non so se lei è nelle condizioni per poterlo richiedere. Noi facciamo così, poi Marco Lombardo, che è il mio assistente, poi la chiama in privato, le faccio in modo appunto che lei ci possa raccontare qualche dettaglio in più rispetto alla sua situazione e vediamo se possiamo aiutarla a chiedere questo bonus, e così magari queste informazioni la potrà trasmettere anche alle sue amiche. Dottor Biancardi, come dobbiamo fare nei prossimi mesi per risparmiare sulla bolletta? Sì, allora innanzitutto l'informazione che vi daranno riguardante il bonus, se la volete trasmettere, siamo diciamo Belietti, ci stiamo lavorando molto sui bonus, sia per le questioni delle famiglie che hanno un disagio, come dire, economico, ma anche per tutte le altre situazioni dove ci sono appunto persone collegate ad apparecchiature elettriche salvavita, ed è un punto su cui stiamo acquisendo informazioni, stiamo già erogando dei bonus, ma è nostra intenzione allargare l'ambito di applicazione di questa, no, di queste tipologie di sconti in bolletta. Stiamo lavorando con la regione Emilia-Romagna, con la Lombardia in particolare, speriamo di chiudere in fretta questa fase di studio sulla parte dei, diciamo, bonus legato al disagio fisico, per poter poi ampliare via via, no, a tutte le categorie. Dottor Biancardi, devo chiudere, un suo suggerimento? Allora, diciamo, per fare qualcosa a fare, io direi che si deve lavorare sull'efficienza energetica, perché questa è la strada migliore, sono investimenti che costano relativamente poco e che danno benefici sicuri e nel breve periodo, è la strada migliore. Consiglierei tu a tutti di lavorare su questo, sia per l'uso gas che per l'uso energia elettrica. Noi andiamo avanti intanto con le nostre pillole curate appunto con la collaborazione dell'INPS, per spiegarvi il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Questa settimana stiamo spiegandovi le nuove pensioni di vecchiaia. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Che cosa significa che l'età pensionabile sarà adeguata progressivamente all'aspettativa di vita? L'età pensionabile per ottenere la pensione di vecchiaia è fissata dalla riforma per il 2012 a 66 anni per tutti gli uomini e per le donne dipendenti del settore pubblico, a 62 anni per le donne dipendenti del settore privato e a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome. La riforma stabilisce anche che l'età pensionabile per le donne del privato, dipendenti e autonome, salirà a 66 anni entro il 2018. Ma, a parte le soglie definite direttamente dalla legge, è previsto che l'età pensionabile sia adeguata all'evoluzione della cosiddetta aspettativa di vita calcolata dall'Istat. A mano che crescerà la speranza di vita, e dunque si vivrà più a lungo, crescerà anche e parallelamente l'età della pensione. È già ipotizzabile, per esempio, che l'età pensionabile del 2018 sarà non di 66 anni, come è determinato fin da ora dalla legge, ma di 66 anni e 7 mesi, proprio per effetto dell'ormai sicuro e prevedibile allungamento della speranza di vita delle persone. Maurizio, per risparmiare in molletta voglio anche un suggerimento tuo. Ha perfettamente ragione Biancardi, bisogna fare efficienza energetica, sono decine le centinaia. Cioè all'interno della nostra casa? All'interno anche della casa, si possono come fare centinaia, dall'involucro ai serramenti, a impianti più efficienti, alle lampadine più efficienti. E c'è un fatto positivo, che quando fate efficienza energetica i costi non li scaricate sulle spalle dei vostri vicini di casa. Grazie a Maurizio Melis ed Alberto Biancardi dell'Autorità per l'Energia e il Gas, ci sentiamo domani, buona giornata.